Nuova puntata del nostro podcast, questa volta parliamo dei personaggi italiani della fantascienza. Sappiamo che su questo ambito hai delle idee abbastanza precise e soprattutto hai simpatie e antipatie profonde. Quali sono i personaggi della fantascienza italiana, personaggi, parlo di persone in carne e ossa, che ricordi con maggior affetto o con maggior disistima? Ah, ecco, credo, vedo all'orizzonte un sacco di lavoro per il mio avvocato. Beh, sicuramente con affetto Pestegnero, veneziano anche lui, collega, e con cui a volte abbiamo avuto anche, non siamo riusciti, ma abbiamo avuto dei tentativi di fare delle cose insieme. Sicuramente Gloria Tartari, una delle poche donne in fantascienza più o meno della mia generazione, cara amica fra l'altro. Una disistima, quanto tempo ho? Un altro minuto più o meno. Va bene, allora la mia disistima, si sa, lo sanno tutti, che va principalmente a Ugo Malaguti, che è stato un ottimo editor, ha portato in Italia autori di grandissimo interesse, però dal punto di vista non tanto personale quanto di rapporti con i suoi autori, non era esattamente limpido, la mettiamo così? Ecco, perché appunto il mio avvocato ha già molto da fare.